Tempo di sport di Gigi Garanzini. Tra poco tocca all'Inter, è in programma alle 18 ad Abu Dhabi la semifinale per il titolo mondiale di club, però continua a tener banco nel frattempo la clamorosa vittoria di ieri dei congolesi sull'Internazionale di Porto Alegre, perché per la prima volta la finale mondiale o intercontinentale, che dir si voglia, così si diceva non molto tempo fa, non sarà tra Europa e Sud America, ma tra Europa e Africa. Tra Europa e Africa, sempre ovviamente, che l'Inter oggi non si faccia a sua volta sorprendere dai coreani. La vigilia del presidente Massimo Moratti. Sei mesi che non li vediamo tutti insieme, spero che stasera ci siano tutti, se è così insomma vedremo un pochettino, speriamo che il carattere faccia in modo che possa far esprimere bene il loro talento. Insomma. Noi non siamo ancora in finale, dobbiamo affrontare i coreani, quindi penso a quelli, la nostra finale è quella lì e poi dopo vedremo cosa vorrà dire affrontare l'entusiasmo e la bravura di questi ragazzi, cercare di vincere. Mi dispiace, ha poi aggiunto Moratti, per i brasiliani che vivono con tanto entusiasmo questo genere di appuntamenti, ma appunto adesso tocca a noi e stiamo molto attenti perché la lezione di ieri sera ci può essere utile. C'è stato calcio ieri sera con la Coppa Italia, con la grande rimonta del Parma, ma si può dire forse di Crespo, del vecchio Crespo sulla Fiorentina. C'è calcio stasera con l'Europa League, che conta ormai soltanto più per il Napoli, ma che prevede tra oggi e domani altri tre impegni per Sampdoria, Palermo e Juventus. Io direi di partire proprio da Crespo e da questa sua impresa, perché la partita era andata insomma, abbastanza, si era trascinata abbastanza stancamente sullo 0-0 fino a pochissimo dalla fine, non dei tempi regolamentari ma dei supplementari, quando a 7 minuti dalla fine Santana ha segnato per la Fiorentina. Fuori casa sembrava veramente che tutto fosse concluso. È bastato un minuto e mezzo circa a Crespo per ribaltare la situazione. Sentiamo Crespo. Ho fatto il mio, io ci ho creduto sulla sponda di Zaccardo, poi magari mi ha aiutato un po' Avramov e poi nel secondo ancora, sempre crederci a un tiro di Candreva aspettando che succeda quello. Tante volte non succede, tante volte uno ci va e il portiere la para tranquillamente, invece lui è stato bravo perché è riuscito a incrociarla e ha permesso di lasciare la respinta lì per me, che era soltanto quello che aspettavo. Quindi uno ci va spesso, tante volte magari sotto Santa Lucia il regalino ci stava. Sotto Santa Lucia, che per i parmigiani è davvero importante. Crespo si considera non da oggi si considera un parmigiano di adozione. Continua a essere flagellato il Bari da infortuni e da sventure di ogni genere. Allora, meglio che niente, stanotte leggo da un'agenzia appena battuta dall'ANSA, Alvarez è stato ricoverato al Policlinico Barese per accertamenti per una colica appendicolare, ricovero reso necessario e con ogni probabilità necessità di intervento chirurgico, insomma che poi un'appendicite, per carità, non è che sia questo evento fuori routine, ma è anche vero che il Bari ha giocato a Roma domenica scorsa mi pare con 10 giocatori indisponibili, Alvarez fa 11 e bisognerà vedere se lo sventurato Ventura riuscirà a recuperarne qualcuno in vista del prossimo turno, che è anche l'ultimo del 2010. La vigilia invece di Napoli Steaua Bucarest, che è particolarmente sentita a Napoli perché galvanizzata insomma dai risultati di campionato, la tifoseria non vuol mollare, evidentemente nemmeno l'Europa League, al punto che si calcola che stasera a San Paolo ci saranno circa 50.000 persone, che insomma, di questi tempi e per l'Europa League è davvero un gran numero di spettatori. La vigilia di Mazzarri. È già motivo d'orgoglio, già tanto essere arrivati a questo punto. In più, proprio il caso ha voluto che la giochiamo nel nostro stadio. È vero che abbiamo solo un risultato su 3, in questo senso la squadra avversaria è avvantaggiata da questo punto di vista. Però è motivo d'orgoglio e di grande stimolo per noi. Oh, dunque siamo partiti dall'attualità e adesso volevo anche poi però ricordarvi come si sviluppa l'appuntamento di oggi. Dopo il primo intervallo avremo l'appuntamento rinviato ieri con il calcio internazionale, quindi con Fabio Tavelli per fare il punto sugli altri campionati d'Europa. Dopo l'intervallo poi e dopo i vostri interventi, come sempre all'800240024, direi che è arrivato il momento di inaugurare quella serie che insomma a me sta a cuore e che mi sembra abbiate sempre gradito in questi anni, e cioè la serie dei libri, delle letture natalizie da suggerire a chi apprezza la letteratura, o semplicemente magari cagliamo di un filo, magari anche semplicemente la lettura sportiva, purché evidentemente di qualità. Oggi il primo appuntamento, domani ne seguirà un altro, e così varrà fino per la intera prossima settimana fino a Natale. Adesso sentiamo, prima appunto di arrivare al panorama del calcio internazionale in compagnia di Fabio Tavelli, facciamo un panorama di calcio nazionale invece. Abbiamo sentito la vigilia interista, abbiamo sentito la vigilia di Europa League, abbiamo sentito l'inossidabile Crespo dopo la sua doppietta vincente di ieri sera in Coppa Italia. Adesso ci spostiamo a Bologna per sentire come il patron della Virtus, Sabatini, si dichiari disponibile in caso fallissero eventuali altre soluzioni, si dichiara disponibile in ogni caso a salvataggio del Bologna. Per l'eventuale cessione dell'80% del Bologna Calcio e il versamento di una cifra che consente il salvataggio del Bologna e il non fallimento. Sono consapevole che il dottor Zanetti, titolare e proprietario del gruppo Segafredo, avrà un incontro con il dottor Porcedda. Mi auguro che concludano loro questa trattativa. Da cittadino di Bologna e tifoso del Bologna, nell'eventualità che non accadesse l'esito felice di questo incontro, sono a disposizione per evitare il fallimento del Bologna Calcio. Beh, comunque è una, in ogni caso un paracadute in più, no? Visto che parecchi ascoltatori bolognesi ogni giorno scrivono, chiedono di sapere novità sul Bologna. Io generalmente non li posso accontentare, perché di novità, tantomeno di novità qua stando in onda, non ne ho. Questo contributo vocale che vi ho appena trasmesso mi sembra, ripeto, una soluzione in più per non angosciarsi più di tanto, no? Per le sorti del Bologna. A questo punto un po' di Juventus, direi. O prima no, prima facciamo un lampo della pulga, un lampo di Messi in visita ieri a Milano, proprio veramente un breve frammento. No, sempre ha sido amorati, no, perché sempre lo de mí, sempre lo hizo muy bien, y la verdad que para mí que una persona tan importante hable también de mí es un orgullo. Ringrazio molto Moratti, gli sono grato per le belle parole che continua a dire su di me, ma, e questo forse questa parte che era poi quella più importante, mancava in questo frammento, perché è stato davvero preso così in maniera un po' avventurosa, ma la mia vita attuale e il mio lavoro attuale sono al Barcellona, e quindi grazie. Ma resto dove sono. Dicevo, un po' di Juventus attraverso la vigilia di Del Neri, che torna, tra l'altro non è la prima volta che gli succede da allenatore lanciatissimo, ma insomma che torna dove ha mosso i primi veri passi in Serie A di qualità, e cioè sul campo del Chievo. Mi sembra che Verona sia un bivio importante per il futuro della Juventus come risultato. Bivio importante perché ogni partita bisogna giocarla per vincere, e quindi la Juventus andrà in campo come andrà sicuramente il Chievo per vincere la partita, solo per quello, non per produrre nessuna parola che avrebbe senso solamente 18 o 20 di maggio, penso. Allora quel momento là il senso sarebbe più profondo. Buongiorno Fabio Tavelli. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Beh, non un risultato poco significativo, o meglio, l'1-0 nella sua banalità è uno dei risultati più classici del calcio, però insomma, uno United che sembrava, non dico liquidato, ma certamente in fase di ridimensionamento non più tardi di un mese fa, la musica l'ha già cambiata, Sì, devo dire, la musica è cambiata. A parere mio, i verdetti per modo di dire, comunque insomma, le sensazioni che la partita di ieri sera ha dato sono due. La prima è che Alex Ferguson, che in settimana supererà il record di Sir Busby come permanenza su una panchina, e siamo oltre i 24 anni, ha ancora lucidamente in mano le sorti della squadra, perché è schierato una squadra tatticamente perfetta con solo Rooney, con un Berbatov in panchina. In questo momento tenere Berbatov in panchina è un qualcosa che denota come Ferguson abbia, ripeto, perfettamente in mano le redini del comando e anche molta lucidità nelle scelte. Perché stiamo parlando del capocannoniere della Premier League. Certo, e stiamo parlando di un giocatore che è nella sua migliore stagione da quando è al mondo, per cui ripeto, è una decisione importante anche dal punto di vista della gestione complessiva della squadra. E il secondo dato è che ancora una volta l'Arsenal fallisce un appuntamento importante, una ennesima riprova che con tutta probabilità il processo di crescita e di maturazione a parte dei giovani di Wenger ancora non è compiuto. Avranno modo di rifarsi, il campionato non è finito, però siamo in una fase veramente importante, perché nel prossimo turno ci sarà la sfida tra il Chelsea e il Manchester United, il 27 si giocherà la sfida tra l'Arsenal e il Chelsea, insomma il Chelsea in 3 giornate si fa Tottenham, Manchester United e Arsenal, e io credo che insomma, se il 28 avremo ancora Carlo Ancelotti in panchina al Chelsea, vorrà dire che il Chelsea questi esami li ha superati. Complessivamente devo dire la partita ci ha dato nuovamente un Manchester United in linea con le aspettative di inizio stagione, oltretutto una squadra che inventa la classifica anche con un turno da recuperare, una partita contro il Blackpool. Il capitolo spagnolo si apre con i miasmi che dalla Spagna arrivano su presunte ipotetiche o comunque su rilanci di voci di doping sportivo collettivo spagnolo, con un riferimento preciso quanto di attendibilità da verificare addirittura sui titoli europeo e spagnolo, europeo e mondiale della Spagna. Quanto di tutto questo ti risulta spaventare il mondo sportivo spagnolo, e quanto invece sempre secondo te è destinato a lasciare, se non il tempo che trova quasi? No, il tempo che trova non lo lascia, perché in Spagna si è scatenato davvero un dibattito forte, perché intanto stiamo parlando non di dichiarazioni di Eufemiano Fuentes, ma di un qualcosa che sarebbe stato riportato, cioè udito, e poi bisogna anche capire in che momento lui eventualmente l'avrebbe detto, quindi poi l'utilizzo dei condizionali qui è necessario e doveroso, fermo restando che le fonti dalle quali arrivano queste ipotetiche dichiarazioni o ipotetici sfoghi non appartengono a due persone di specchiata onestà, ma persone che in quel momento erano in galera. Avanzi di galera, no? Sono chiacchiere. Sono chiacchiere di avanzi di galera che sono rimbalzate con un fragore pazzesco sui giornali di tutto il mondo. Sì, stiamo parlando teoricamente di niente. Detto questo, è importante che in un momento nel quale piano piano la Guardia Civile e la magistratura spagnola stanno facendo un lavoro veramente grosso di pulizia all'interno del mondo sportivo spagnolo, insomma, che lo abbiano fatto nel ciclismo, che lo stiano facendo nell'atletica, che vadano a toccare anche altre situazioni, è solo una cosa positiva. Io onestamente non credo, ma neanche minimamente, che tutto questo possa andare anche solo a graffiare i successi della Spagna di Aragonés prima e di Del Bosque poi. È importante comunque che l'attenzione e la guardia venga tenuta alta in una situazione come questa, proprio perché non ci sia nessun genere di ombra. Ripeto, io non ci credo minimamente, però è anche giusto eventualmente verificarle certe cose. Dunque, i numeri spagnoli attualmente dicono che il Barça è reduce da un numero terrificante di vittorie esterne, adesso ce le ricordi tu, da un 26-0 come score più recente di gol fatti e subiti nelle ultime partite, mentre la lotta col Real si traduce anche in due capocannonieri appaiati a 17 gol in 15 partite, che si chiamano Messi e Ronaldo. Sono numeri impressionanti, questi sì. Che creano in imbarazzo, credo che regni un imbarazzo in tutto il movimento, nel senso che non, cioè, il dominio di Reale Barça è un dominio che non viene da oggi e già in passato si è verificato in circostanze abbastanza simili, ma con questo peso così spaventoso, questa sensazione davvero che gli avversari non esistano e quasi le due squadre si rincorrano, una ne fa tre, allora l'altra sente in dovere di farne cinque, con una facilità irridente nei confronti anche di grandi squadre, ecco che da un lato ci consegna le due squadre più forti d'Europa, ma con un paio di giri di vantaggio, secondo me, in questo momento, tra l'altro con un dato dello scontro diretto clamorosamente a favore del Barcellona. In seconda analisi ci consegna invece un campionato davvero monco, perché è un campionato che è buono dal terzo posto in giù per tutte le varie situazioni di equilibrio e che invece si risolverà in una lunghissima volata. Devo dire forse estenuante, anche perché poi diventeranno decisivi particolari. Già nel prossimo weekend ci saranno due partite abbastanza delicate, perché il Real Madrid gioca contro il Siviglia e il Barcellona gioca il derby contro l'Espagnol. Questa è una partita nella quale il Barcellona potrebbe anche non vincere, non dico perdere, ma potrebbe anche non vincere, e quindi andrebbe a sterilizzare immediatamente il 5-0 che ha rifilato il Real Madrid. Insomma, sì. È tappa su tappa, insomma, una lunga cronometro, diciamo così, con un solo scontro diretto che si giocherà al Bernabeu in aprile. Senti, tu hai parlato di numeri imbarazzanti, e sono numeri che questi delle due squadre regine di Spagna, però che insomma che si può estendere anche allo United, sono numeri e sono sensazioni che poi si riverberano anche su quello che accadrà venerdì, perché è vero che per il calcio italiano c'è un primo appuntamento della semifinale mondiale, ma insomma, per, io direi, per rispetto nei confronti dell'Inter, magari questo al momento ce lo risparmiamo, no? E ci teniamo poi la finale. Mentre venerdì invece l'appuntamento è con i sorteggi. Allora, ricordando per l'ennesima volta che per tutte e tre le italiane si tratta di prendersi una vincitrice di girone, sti numeri inquietano, insomma. Beh, sti numeri inquietano, sì, perché comunque il Milan sa che non può prendere il Real Madrid, ma sa che dovrà, insomma, sperare di non beccare il Barcellona, così come l'Inter sa perfettamente che può prendere il Real Madrid di José Mourinho, l'Inter può prendere il Real Madrid, può prendere il Manchester United, può prendere il Chelsea, la Roma stessa può prenderle tutte, potendo scartare soltanto il Bayern di Monaco, e ripeto, tutti vorrebbero lo Shakhtar di Donetsk, ma soltanto una se la prenderà. Poi ci sono lo Schalke 04, c'è lo stesso Tottenham che andrebbe benissimo, secondo me, sia alla Roma che al Milan, però è chiaro che nel momento in cui dovessero scattare le palline spagnole, ecco che qualche brivido, cioè, voglio dire, se il Milan prendesse il Barcellona e l'Inter prendesse il Real Madrid, insomma, io credo che un po' di paura legittimamente dovrebbe venire alle squadre italiane. Io chiuderei con un'anticipazione questo collegamento di oggi, Fabio, che riguarda come dire, le feste da santificare. Perché poi arriveremo la prossima settimana, ne parleremo in dettaglio, e anzi daremo a chi ci ascolta una sorta di guida alla TV festiva durante appunto durante quei giorni, con gli appuntamenti migliori, ma già sin d'ora mi pare che ci sia proprio in Spagna un'inversione di tendenza, perché loro hanno sempre fatto la sosta lunga almeno quanto la nostra, e invece quest'anno giocano di più. Giocano il 2, conoscendo il carattere anche festaiolo degli spagnoli, è evidentemente una mossa interessante. Io sono da anni un sostenitore, ma non perché io lavori per una televisione a pagamento, ma sono un sostenitore del fatto che gli spettacoli debbano andare in scena, e il calcio è uno spettacolo, cioè lo sport è una cosa diversa, nel senso che lo sport è quello che possiamo praticare io e te, ma quello che vediamo negli stadi o in televisione è intanto anche uno spettacolo, e quindi debbano andare in cartellone quando le persone sono a casa, e quindi consentire ai calciatori una pausa così lunga, a parer mio, è improprio, e gli spagnoli questa cosa l'hanno capita, e credo che, insomma, tra l'alternativa di un cinepanettone facendo la coda al cinema e uscendo poi dal cinema lamentandosi che, insomma, è sempre la solita minestra, è una bella partita o comunque una serie di partite, io grandi dubbi non ne avrei. Oltretutto gli inglesi in questo ci hanno abituati bene, mettono in cartellone il cosiddetto Boxing Day il 26 più la partita del 27 tra Arsenal e Chelsea, beh, insomma, credo che sia una valida alternativa ai vari cinepanettoni o cose varie. Poi, ripeto, si può gradire qualsiasi cosa, intendiamoci, è bello che ci sia libertà di scelta per tutto, ma a me piace molto pensare e poter vedere un po' di calcio. Allora, l'intesa è che la prossima settimana ci armeremo di carta e matita e prenderemo buona nota degli appuntamenti che ci segnalerai da lì all'Epifania. Va bene, buona giornata a tutti. Grazie a Fabio Tavelli. Milcare dalla provincia, no, da Modena, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io volevo parlare della mia piccola esperienza. Io siamo da Modena, piccola città per il calcio, da noi per vedere una partita, acquistare i biglietti devi entrare in banca, documenti, codice fiscale, tessera del tifoso, poi quando entri tornelli, controlli, ancora controlli, controlli su controlli. Invece io sono andato con la mia famiglia domenica a vedere il Barcellona, acquistati i biglietti sul ticket store del Barcellona, mi sono stati recapitati in albergo, domenica siamo usciti, io ho visto ovunque per Barcellona tifosi, gruppi singoli della Real Sociedad con le loro magliette tranquillissimi, la sera in metro tutti insieme a vedere la partita, si entra nello stadio, l'unico controllo con il lettore ottico sul biglietto, tutti mescolati, i vari tifosi, la gente, ho visto che le loro borse prendono i loro panini, la loro bevande, nessuno, presenza discreta di steward di polizia, poi si vede quel magnifico spettacolo che è il Barcellona. Questa è la differenza, vedo questa differenza in modo di fruire sport fra noi e in questo caso i catalani. Amilcare, lei in un minuto circa, e mi sarei guardato bene da interromperla per una volta se anche avesse continuato ancora per un pochino, lei in un minuto ci ha spiegato meglio di un trattato qual è la differenza oggi tra il nostro calcio e il calcio altrui, non solo dal punto di vista dello spettacolo, perché lei sta parlando oggi di chi gioca meglio a pallone al mondo, ma dal punto di vista della fruibilità, della facilità di accesso, dal punto di vista della civiltà di comportamenti e di ambiente. E cosa vuole che le dica? Ho l'impressione che un'inversione di tendenza non sia, non in Spagna intendo, dove non me l'auguro, ma che un'inversione di tendenza da noi sia molto, ma molto al di là da venire. Dopo Amilcare e Annibale, quindi stiamo andando in ordine alfabetico stretto, al momento dalla provincia di Lodi. Buongiorno Annibale. Buongiorno, ci avete messo insieme oggi. Senta, io invece chiamavo per era già qualche giorno che volevo parlarne, perché io dopo la partita tra Real Madrid e Barcellona di qualche settimana fa, mi sono veramente chiesto se quegli uomini sono degli alieni oppure se dietro c'è un'operazione. Io non parlo di doping conosciuto, ma magari di doping sconosciuto che per il momento non è ancora, diciamo, stato registrato da chi deve poi reprimere, ma secondo me c'è qualcosa che non funziona, insomma. Vorrei un suo parere. Il mio parere è nettamente contrario al suo, e anzi ho sempre trovato pessima l'idea che quando si vede qualcuno giocare bene oppure fare una grande impresa o qualcosa del genere, il primo pensiero sia il doping. È vero che purtroppo abbiamo dovuto abituarci a questo, però io distingo sempre tra gli sport di fatica e gli sport di destrezza. Sugli sport di fatica l'incidenza del doping, per quanto se ne sa, ma insomma anche anche in prospettiva, parlandone ogni tanto con qualcuno che se ne intende, l'incidenza è sempre più alta e il rischio dell'incidenza in ogni caso c'è e cresce. Sugli sport di destrezza è molto molto diverso. In ogni caso io per quanto riguarda, intanto la chiacchiera dell'altro giorno è già stata smentita, intanto ripeto era una sorta di intercettazione tra un medico indagato per doping, che è notoriamente indagato per doping da un sacco di anni, ma ne abbiamo anche noi in Italia di medici indagati per doping, se per quello, e anche già processati. Ma quindi al di là della nulla attendibilità di quest'ultimo sviluppo cronistico, io mi limito a una considerazione che è questa. Il Barcellona, a Barcellona corrono, ma soprattutto fanno correre la palla. E semmai loro corrono, si muovono armonicamente quando la palla non ce l'hanno. Quando la palla ce l'hanno spendono molto poco, perché la fanno correre immediatamente, salvo rare eccezioni e salvo qualche spunto in dribbling, in particolare di Messi. Sinceramente quel genere di di retropensiero personalmente non, nemmeno mi sfiora. Il giorno che dovessero dimostrarmi, non raccontarmi, dimostrarmi che il calcio spagnolo e in particolare quello del Barcellona si avvale di aiutini, io le garantisco che smetterei di guardare calcio un secondo dopo. Alberto, provincia di Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno a lei. Guardi, il mio intervento era questo. Intanto sono d'accordo con il mio vicino, diciamo così, il paese di Modena. Il modenese. Il modenese. Sì. Sinceramente volevo dire quello che ha detto lei prima, nel senso che se effettivamente, io non ci credo assolutamente, saltasse fuori, venisse fuori, che comunque questi giocatori, questi straordinari giocatori, sono dopati, un minuto dopo smetto anch'io di vedere il calcio. Mm-hmm. Tutto lì, volevo solo testimoniare questa cosa. Mi fa piacere di averle rubato l'idea, Roberto, Alberto, in questo caso, ma lo dico con grande sincerità, perché poi sono le chiamiamoli pure le delusioni da innamoramento, quelle più forti, no? Io ho smesso di vedere una corsa ciclistica all'indomani di Pantani, e non ho intenzione di ricascarci, e sono abbastanza certo, anzi, che non ci ricascherò più. Poi per ragioni professionali posso seguire distrattamente, documentarmi, okay, ma saltare sulla poltrona come quella volta che Pantani Europa accese il motore, ma noi pensavamo nel senso migliore del termine, no? Accese il motore e da ultimo che era o quasi li rimontò tutti sulla salita, una salita che poi per ragioni di nascita addirittura conosco molto bene, insomma, io un'emozione così l'ho sprecata una volta, non ho intenzione di sprecarne altre. Quindi quelle che mi sta regalando il Barcellona da anni a questa parte, soprattutto negli ultimi 2-3, se per caso dovessero rivelarsi, ma lo escludo, ripeto, dovessero rivelarsi taroccate, basta, ci saranno altri modi di investire il proprio tempo libero. Sergio, provincia di Teramo, buongiorno. Buongiorno a lei, sono Ferrandini. Di che? È la prima volta che mi metto in contatto con lei, quindi volevo, io sono un inguaribile interista e volevo parlare della situazione momentanea dell'Inter e di Rafa Benitez. Sono convinto che Rafa sia un buon allenatore, anche se quest'anno qualcosina di suo l'ha messa. Quando dico che sono un inguaribile interista, io sono ancora convinto, se riuscissimo a centrare questo obiettivo questa sera e sabato, l'Inter è ancora in corsa per lo scudetto. Che ne pensa? Penso di no, però è un'ipotesi, certamente sì. A me sembra che il distacco sia alto e soprattutto che le squadre davanti siano tante, non una soltanto che potrebbe sempre crollare, mi sembra che siano molte. Però è anche vero che il potenziale è quello, così come hai fatto un girone d'andata disastroso in cui hai regalato punti ovunque, magari fai quello di ritorno dove non lasci più niente. La rimonta della Roma dello scorso anno lascia aperta evidentemente questa eventualità, insomma, vediamo tutto qua. Dunque, c'è ancora un ascoltatore e poi quasi quasi vorrei anticipare, anzi lo anticipiamo subito, l'appuntamento con Sembra Ieri, perché così poi come dire sgombriamo l'ultima parte del programma per questa lettura che mi piacerebbe suggerirvi per le vostre vacanze di Natale. Allora, sentiamo cosa ha trovato Nicola Filippone per un 15 dicembre. Sembra Ieri. 15 dicembre 1974. Alla decima giornata di campionato, le ambizioni del Napoli di Vinicio subiscono un duro colpo al San Paolo contro la Juventus di Carlo Parola, che consolida il primato in classifica. I bianconeri si impongono per 6-2, trascinati dall'ex Altafini, che sblocca il risultato al 26esimo, e da Damiani, che firma una doppietta. Dopo il brutto KO del San Paolo, il Napoli però saprà riprendersi. Chiuderà il campionato con un brillante secondo posto alle spalle della Juve, dopo aver perso lo scontro diretto di ritorno per 2-1, con gol decisivo del solito Altafini. Un paio di messaggi a proposito di quel che si diceva prima. Nico da Biella, quindi un conterraneo, mi scrive: il doping aiuta i muscoli, ma non l'estro e la fantasia e la tecnica nel calcio, e quindi serve bene a poco. Io credo adesso messa così un po' semplificata, come non può, non potrebbe essere diversamente in un SMS, però io la penso abbastanza così. Oggi la Gazzetta, scrive Dario da Firenze, ha pubblicato i riccioli e i triangoli del Barcellona, li ho visti, schemi che credo non abbiano uguali negli ultimi 10 anni di calcio mondiale, vada pure anche un pochino più indietro secondo me di questi 10 anni, e calcoli però sempre le attitudini tecniche che ci vogliono per realizzarle. Gianmarco, provincia di Chieti, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, un piacere parlare con lei. Grazie. Ascolto, una domanda solamente riguardo, è possibile anche con un confronto con Sacchi, lo Sacchi ha portato un'innovazione in questo calcio, questo gioco del Barcellona potrebbe essere adottato anche in qualche squadra italiana? Cioè partendo proprio con l'idea di mentalità di gioco, cioè totalmente. Ascolto per radio, grazie. È presto detto, bisogna creare un vivaio, bisogna che in questo vivaio i ragazzini dai 13-14 anni in su al massimo comincino a giocare con quel modulo, ma prima ancora di giocare con quel modulo bisogna che comincino ad affinare i piedi, la tecnica, a giocare senza palla, a giocare in funzione sempre del compagno, ma non di uno solo, di altri in più. Insomma, è un lavoro lunghissimo che deve nascere in profondità. Se uno pensa di trapiantare il modello Barcellona così ex abrupto, direbbero, no? Quelli che hanno studiato da un minuto all'altro, è meglio che segua altri modelli di riferimento buoni, per carità, validissimi, meno spettacolari e di più facile applicazione. Il primo della serie è appena uscito, ho sott'occhio una copertina direi affascinante. Il titolo è Il mio nome è Giuseppe Meazza, è firmato da Federico Iaselli Meazza e Marco Pedrazzini. Perché mi è piaciuto? Ma intanto per la suggestione, una suggestione di fondo. Questo 2010 era l'anno del centenario della Nazionale, che per l'appunto nel 1910 giocò la sua prima partita all'Arena di Milano il giorno 15 maggio. Sappiamo che gli azzurri l'hanno celebrato come peggio non si sarebbe potuto, no? Giocando per l'appunto il peggiore, mi spiace per la ripetizione, ma il peggior mondiale della storia. Ma questo 2010 era però anche quello del centenario di uno degli alfieri dell'anteguerra della nazionale italiana, anzi l'alfiere per eccellenza, che era Peppino Meazza, nato per l'appunto a Milano il 23 agosto del 1910. E mi pare che invece, a differenza di quell'altro centenario, questo sia stato ben celebrato grazie a questo libro. Sono collegato con uno dei due autori, con Marco Pedrazzini. Buongiorno Marco. Buongiorno a te Gigi e a tutti gli ascoltatori di A Tempo di Sport. Mi piacerebbe che tu raccontassi come vi è venuta, perché siete in due autori, innanzitutto come vi è venuta l'idea e poi come l'avete realizzata. L'idea si è sviluppata partendo dal, come dicevi tu prima, dal centenario. Volevamo onorare con una giusta luce le opere calcistiche di Peppino Meazza. E con la famiglia, quindi con la persona di Federico Iaselli, che è il nipote, abbiamo iniziato a lavorare un anno fa sull'archivio. Sì. Sull'archivio della famiglia, che conta più di 2000 foto di ritagli di giornale d'epoca. Ecco un problema di linea che adesso proveremo a ripristinare. Un archivio ricchissimo, perché tra l'altro questo libro quasi volume, ma è un libro però, perché nonostante il suo, diciamo pure spessore, si maneggia agevolmente, è ex Cogita editore, per chi fosse interessato, ed è davvero ricchissimo dal punto di vista iconografico, perché è evidente che c'è stato da parte degli autori un vero e proprio saccheggio, lo dico in termini positivi, un saccheggio di questo archivio familiare grazie a Federico Iaselli Meazza, che Marco Pedrazzini ci ha appena spiegato essere un discendente diretto di Meazza. Abbiamo ripristinato il collegamento, Marco. Perfetto. Sì, ti stavo dicendo che abbiamo lavorato sull'archivio di famiglia, abbiamo selezionato oltre 400 fotografie, ritagli di giornale, e abbiamo raccontato la storia di questo calciatore che, come tu accennavi prima, è stato il prototipo, direi, del calciatore moderno, perché certo, in campo è riuscito comunque a vincere sotto la guida di Pozzo 2 mondiali consecutivi, 34-38, ha vinto 2 coppe internazionali del 30 e del 35, che magari adesso la maggior parte del pubblico calcistico non ricorda, però erano una sorta di campionato europeo. Sì. Con le più forti formazioni come Ungheria, Cecoslovacchia, certo, Austria. Quelle di allora. E da lì Esatto, è nata, diciamo, un'Italia fortissima che ha dominato comunque la scena internazionale per un decennio. Ma ti dirò che sfogliando queste fotografie, non so, ne vedo una in cui Meazza è al centro di un gruppo di amici con e sta suonando una fisarmonica, di fianco è in galleria a Milano con due signore o signorine, una più bella dell'altra. Meazza è sempre elegantissimo, sia in quegli anni in cui era un calciatore, sia negli anni, a maggior ragione, negli anni successivi, negli anni poi della maturità e nella terza età, quando era un distinto signore ed era una vecchia gloria, poi adottata dall'Inter. Tu ci hai detto qual è stato il contributo del tuo coautore Federico, cioè l'archivio e le memorie di famiglia. A tua volta tu però fai un mestiere molto simile, mi pare. Sì, io lavoro come documentalista, quindi alla Gazzetta dello Sport, quindi il mio lavoro è andare a recuperare comunque vecchi dati, vecchi ritagli, analizzare, confrontare le fonti. Quindi direi che abbiamo fatto un lavoro profondo che per le curiosità ha riportato alla luce un gol in più di Meazza. Pure. Che sì, potrebbe anche non aggiungere nulla a una carriera straordinaria, però comunque è stato fatto contro il Milan nel 34 su colpo di testa, un 2-2 all'Arena di Milano, quindi noi l'abbiamo giustamente sottolineato. Quindi fatto nel girone unico, scusa se ti interrompo, no, ha realizzato 198 gol con la maglia dell'Inter, quindi è una curiosità che noi portiamo al pubblico. Ho trovato anche molta cura nelle didascalie, perché queste foto sono, alcune parlano da sole, però è sempre bene contestualizzarle, sia Meazza in bicicletta, sia Meazza all'arena, i suoi oggetti, le sue scarpe, la sua vita militare, la sua vita in nazionale, eccetera. A parer mio, non solo il ritratto del miglior calciatore italiano del dopoguerra, poi se sia stato il migliore in assoluto da che esiste il calcio in Italia, può essere. Gianni Brera era certamente un fautore di questa tesi. In ogni caso, nell'anteguerra, con tutto il rispetto per chi era diventato campione del mondo due volte con e grazie a lui, insomma, diciamo che il leader, anche per la qualità dei suoi piedi, l'era, come si diceva a Milano, in Viale Umbria, dove era nato, è il Pepin Meazza. Io direi, Marco, che di segnalare, ho detto giusto, ex Cogita Editore? Esatto, ho pronunciato bene. Editore, esattamente, e comunque in tutte le librerie di Milano in questi giorni. Mi auguro anche dei dintorni di Milano. Sì, sicuramente, stiamo aumentando la distribuzione, perché le richieste hanno avuto un buon impatto. Questo libro si riferisce a un'epoca i più sconosciuta, quindi direi che dice anche ai più giovani chi è stato Giuseppe Meazza. Se vogliamo fare una notazione tecnica, possiamo dire che era un giocatore che giocava con tutti e due i piedi e in più aveva un colpo di testa fenomenale. Certo. Era alto soltanto 1,72, però colpiva benissimo di testa e ha vinto un mondiale come centravanti e un mondiale come mezzala. Quindi direi che è difficile in epoca moderna trovare un calciatore completo come è stato lui. Da questo punto di vista direi proprio di sì. Grazie allora Marco Pedrazzini. Grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori. Un saluto anche al coautore Federico Iaselli Meazza. Vi ricordo che questo libro si chiama Il mio nome è Giuseppe Meazza, l'editore è Ex Cogita Editore, il prezzo è di 35 euro e capirete il perché quando eventualmente in libreria lo vedrete, lo maneggerete e sentirete, insomma, la corposità del volume, vedrete quante immagini, quante fotografie ci sono al suo interno. Sto guardando, sto scorrendo i messaggi di oggi per cercare qualcosa di particolarmente interessante, ma sinceramente sì, ne vedo parecchi, però insomma, l'interesse soprattutto c'è un certo revanchismo nei confronti degli spagnoli, in particolare dei catalani, no? Quasi che, ma è normale, cioè sono talmente bravi in questo momento che comunque un tarlo bisogna trovarlo, no? Oppure bisogna provare a sforzarsi di cercarlo. Ripeto, è bastato che un avanzo di galera parlasse e dicesse: mi ha raccontato il dottor Fuentes che se parla lui, no? Cose che, voglio dire, ripeto, quando esisteva il giornalismo con la G maiuscola, ci si sarebbe rifiutati di pubblicare. È bastato questo e giustamente, inevitabilmente, ha dato la stura. Grazie a Roberto Scaltritti in regia, Franco Piantanide in redazione. Appuntamento a domani.